Eliza Somers aveva visto Joaquin Andieta per la prima volta un venerdì di maggio del 1848, quando era arrivato a casa tenendo le redini di un carro tirato da diversi muli, stracarico di colli della Compagnia Britannica di importazione ed esportazione. Contenevano tappeti persiani, lampadari a gocce e una collezione di statue di marmo ordinati da Feliciano Rodriguez de Santa Cruz per abbellire la dimora che si era costruito nel nord. Uno di quei carichi preziosi che in porto correva dei rischi ed era più prudente mettere in deposito nella casa dei Somers fino a quando non fosse stato spedito ai destinatari finali. Quando il resto del viaggio avveniva via terra, Jeremy assumeva guardie armate per proteggerlo, ma in questo caso doveva farlo pervenire a destinazione su una goletta cilena che sarebbe salpata nel giro di una settimana. Andieta sfoggiava il suo unico vestito, passato di moda, scuro e logoro, non portava né cappello né ombrello. Il pallore funereo contrastava con gli occhi lampeggianti e i capelli neri brillavano grazie all'umidità di una delle prime pioggerelle autunnali. Miss Rose uscì a riceverlo e mamma Fresia, che portava sempre le chiavi di casa appese a un anello in vita, lo guidò fino all'ultimo patio dove si trovava il magazzino. Il giovane mise i giornalieri in fila e il carico passò di mano in mano percorrendo le asperità del terreno impervio, le scale ritorte, le terrazze sovrapposte e gli inutili spiazzi. Mentre contava, spuntava e prendeva appunti sul suo quaderno, Eliza, sfruttando la sua capacità di rendersi invisibile, riuscì a osservarlo a suo piacimento. Aveva compiuto 16 anni 2 mesi prima ed era pronta per l'amore. Quando vide le mani dalle dita allungate, macchiate di inchiostro di Joaquin Andieta, e sentì la sua voce profonda ma chiara e fresca come il gorgoglio di un fiume, impartire secchi ordini agli scaricatori, provò una profondissima commozione e l'incontenibile desiderio di avvicinarsi e di sentirne l'odore lo obbligò ad abbandonare il nascondiglio dietro le palme di un grande vaso. Brontolando perché i muli del carretto avevano sporcato l'ingresso e indaffarata con le chiavi, mamma Fresia non notò niente, ma Miss Rose riuscì a cogliere con la coda dell'occhio il rossore della ragazza. Non gli diede molta importanza. Il dipendente del fratello le sembrò un povero diavolo insignificante, un'ombra tra le tante di quel giorno nuvoloso. Eliza sparì in cucina e dopo pochi minuti tornò con i bicchieri e con una brocca di succo d'arancia addolcito col miele. Per la prima volta in vita sua, lei, che aveva passato anni a tenere in equilibrio un libro sulla testa senza pensare a quello che stava facendo, fu cosciente dei propri passi, dell'ondulazione dei fianchi, dell'oscillazione del corpo, dell'angolo delle braccia, della distanza tra le spalle e il mento. Desiderò essere bella come lo era stata Miss Rose quando, splendida giovane, l'aveva riscattata dalla sua culla improvvisata in una scatola di sapone di Marsiglia. Desiderò poter cantare con la voce da usignolo con cui la signorina Apple Green intonava le ballate scozzesi. Desiderò saper ballare con l'impareggiabile grazia della maestra di danza e desiderò morire in quel momento sconfitta da un sentimento tagliente e inflessibile come una spada che le riempiva di sangue caldo la bocca e che ancor prima di essere formulato la opprimeva con il peso terribile dell'amore idealizzato. Molti anni dopo, davanti alla testa di un uomo conservata in un fiasco di gin, Eliza avrebbe ricordato quel primo incontro con Joaquin Andieta e avrebbe nuovamente provato la stessa insopportabile angoscia. Si sarebbe chiesta 1000 volte nel corso del suo cammino se avesse avuto la possibilità di fuggire da quell'opprimente passione destinata a piegarle la vita, se in quei brevi istanti fosse stato forse possibile girarsi e salvarsi, ma ogni volta che avrebbe formulato questa domanda, sarebbe giunta alla conclusione che il suo destino era stato tracciato fin dall'inizio dei tempi. E quando il saggio Tao Chien le aveva prospettato la poetica possibilità della reincarnazione, si era convinta che in ognuna delle sue vite si sarebbe ripetuto il medesimo dramma. Se fosse nata 1000 volte nel passato e altre 1000 nel futuro, sarebbe sempre venuta al mondo con la stessa identica missione di amare quell'uomo. Per lei non c'era via di fuga. Tao Chi En le avrebbe poi insegnato le formule magiche capaci di disfare i nodi del karma e di liberare dalla coazione a ritrovarsi a ogni incarnazione nella stessa lacerante incertezza amorosa. Quel giorno di maggio, Eliza posò il vassoio su una panca e offrì la bibita prima ai lavoratori per guadagnare tempo, mentre rinsaldava le ginocchia e cercava di controllare la rigidità da mula cocciuta che le paralizzava il petto, impedendo al respiro di passare. E poi a Joaquin Andieta, che continuava a essere assorto nel suo lavoro e che alzò appena lo sguardo quando lei gli porse il bicchiere. Nel tenderglielo, Eliza si avvicinò il più possibile, calcolando la direzione della brezza che le doveva restituire l'aroma di quell'uomo che ormai era deciso, le apparteneva. A occhi socchiusi aspirò il suo profumo di biancheria umida, di sapone a buon mercato e di sudore fresco. O un fiume di lava incandescente prende a scorrere dentro di lei. Le gambe le cedettero in un attimo di panico. Credette davvero di essere sul punto di morire. Quei secondi furono talmente intensi che a Joaquin Andieta cadde il quaderno di mano, come se una forza incontenibile glielo avesse portato via, mentre il calore del rogo raggiungeva anche lui, bruciandolo di riflesso. Guardò Eliza senza vederla. Il viso della ragazza era uno specchio pallido in cui credette di intravedere la sua stessa immagine. Si fece appena una vaga idea delle dimensioni del suo corpo e dell'aureola scura della capigliatura, ma un'idea più precisa l'avrebbe avuta solamente al loro secondo incontro qualche giorno più tardi, quando avrebbe potuto finalmente immergersi fino all'annullamento nei suoi occhi neri e nella grazia liquida dei suoi gesti. Si chinarono contemporaneamente per raccogliere il quaderno, le spalle si toccarono e il contenuto del bicchiere finì sul vestito di lei. «Guarda cosa combini, Eliza!» esclamò Miss Rose in allarme, perché l'impatto di quell'amore repentino aveva colpito anche lei. «Vai a cambiarti e sciacqua l'abito in acqua fredda e vediamo se la macchia va via!» aggiunse in tono secco. Ma Eliza, prigioniera degli occhi di Joaquin, tremante, con le narici dilatate che lo annusavano in modo evidente, non si mosse fino a quando Miss Rose non la prese per un braccio e la condusse in casa. «Te l'avevo detto, bambina, che qualsiasi uomo, anche il più miserabile, può fare di te quello che vuole», le ricordò l'India quella notte. «Non so di cosa stai parlando, mamma Fresia», replicò Eliza. Quando quella mattina d'autunno Eliza conobbe Joaquin Andieta nel patio di casa sua, pensò di aver incontrato il proprio destino. Sarebbe stata sua schiava per sempre. Non aveva ancora vissuto a sufficienza per poter capire cosa era successo, per esprimere a parole il subbuglio che la soffocava o per approntare un piano, ma l'intuito non le nascose l'ineluttabilità. In modo confuso ma doloroso si rese conto di essere in trappola ed ebbe una reazione fisica simile alla peste. Per una settimana, finché non lo rivide, si contorse in coliche strazianti contro le quali nulla poterono le erbe miracolose di mamma Fresia, né le polveri d'arsenico diluite in liquore di ciliegie del farmacista tedesco. Calò di peso e le ossa divennero leggere come quelle di una tortora, con sgomento di mamma Fresia che passava il tempo a chiudere le finestre onde evitare che il vento marino trascinasse la ragazza portandosela via verso l'orizzonte. L'India produsse diversi intrugli e scongiuri tratti dal suo vasto repertorio e quando capì che niente sortiva effetto, ricorse alla geografia cattolica. Dal fondo del suo baule prelevò i miseri risparmi, comprò 12 candele e si recò a trattare con il prete. Dopo averle fatte benedire durante la messa principale della domenica, ne accese una davanti a ogni santo nelle cappelle laterali della chiesa, 8 in tutto, e ne collocò 3 davanti all'immagine di Sant'Antonio, protettore delle giovani zitelle senza speranza, delle spose infelici e di altre cause perse. Quella rimasta la portò, insieme a una ciocca di capelli e a una camicia di Eliza, alla MACI più accreditata dei dintorni. Era una vecchia mapuche cieca dalla nascita, strega di magia bianca, famosa per le sue predizioni inappellabili e per il suo talento nel curare i mali del corpo e le inquietudini dell'anima. Mamma Fresi aveva passato gli anni dell'adolescenza a servire questa donna e a fare apprendistato, ma non aveva potuto proseguire su quella strada come tanto desiderava perché non possedeva il dono. Non ci si poteva fare nulla. Col dono si nasce oppure no. Una volta, quando tentò di chiarirlo a Eliza, l'unica spiegazione che seppe offrirle fu che il dono consisteva nella facoltà di vedere dietro gli specchi. In mancanza di tale misteriosa inclinazione, Mama Fresia aveva dovuto rinunciare alle sue aspirazioni di guaritrice e mettersi al servizio degli inglesi. La Maci viveva sola in fondo a una gola tra due colline, in una capanna di fango dal tetto di paglia che sembrava sul punto di crollare. Intorno regnava un disordine di pietraglia, legna, piante rinvasate, cani, pelle e ossa e uccellacci neri che raspavano inutilmente al suolo alla ricerca di qualcosa da mangiare. Lungo il sentiero di accesso si levava un boschetto di offerte e amuleti piantati dai clienti soddisfatti a testimonianza dei favori ricevuti. L'odore della donna sapeva dell'insieme di tutte le cotture preparate nell'arco della sua vita. Indossava una mantella dello stesso color terra secca del paesaggio, era scalza e sporca, ma adornata da una profusione di collane d'argento di bassa lega. Il suo viso era una maschera scura di rughe con due soli denti in bocca e gli occhi privi di vita. Ricevette la vecchia discepola senza mostrare di riconoscerla, accettò i regali, il cibo, la bottiglia di liquore d'anice, le fece cenno di sedersi di fronte a lei e rimase in silenzio in attesa. In mezzo alla capanna stavano bruciando dei tizzoni vacillanti e il fumo fuoriusciva da un buco del tetto. Dalle pareti annerite dalla fuliggine pendevano pignatte di coccio e di ottone, piante e una collezione di animali essiccati. La fragranza densa di erbe secche e di cortecce medicinali si mescolava al fetore delle carcasse animali. Parlarono in Mapudungun, la lingua dei Mapuche. La maga ascoltò a lungo la storia di Eliza, dal suo arrivo nella scatola di sapone di Marsiglia alla sua recente crisi. Poi prese la candela, i capelli e la camicia e congedò la visitatrice ordinandole di tornare quando avesse portato a termine gli incantesimi e i riti divinatori. «Si sa che a questo non c'è rimedio», annunciò 2 giorni dopo, non appena Mamma Fresia ebbe varcato la soglia della capanna. «Morirà allora la mia bambina!» A questo non so dare risposta, ma so per certo che dovrà soffrire molto. Ma cos'ha? Ostinazione in amore, un male molto deciso. Sicuramente ha lasciato aperta la finestra in una notte chiara e le è penetrato nel corpo durante il sonno. Non c'è scongiuro che tenga. Mamma Fresia tornò a casa rassegnata. Se l'arte di quella Maci così saggia non era sufficiente a cambiare il destino di Eliza, nulla potevano le sue scarse conoscenze o le candele ai santi. Miss Rose. Miss Rose osservava Eliza più con curiosità che con compassione, perché conosceva bene i sintomi e per sua esperienza diretta sapeva che il tempo e le contrarietà spengono anche i più pericolosi incendi d'amore. Aveva appena 17 anni quando si era innamorata di folle passione di un tenore viennese. Allora viveva in Inghilterra e sognava di diventare una diva, nonostante l'opposizione tenace di sua madre e del fratello Jeremy, capofamiglia dalla morte del padre. Nessuno dei due riteneva che cantare l'opera fosse un'attività adatta a una signorina, specialmente l'opera, specialmente perché si svolgeva in teatro, di sera e con abiti scollati. Non poteva contare nemmeno sull'appoggio del fratello John, che si era arruolato nella marina mercantile e faceva capolino in casa 2 volte all'anno e sempre di fretta. Arrivava e scombussolava la routine della piccola famiglia, esuberante e abbronzato dal sole di altre latitudini, facendo mostra di qualche nuovo tatuaggio o cicatrice. Distribuiva regali, stordiva i familiari con i suoi racconti esotici e spariva immediatamente verso i quartieri delle donne di malaffare, dove rimaneva fino al momento del nuovo imbarco. I Somers erano gentiluomini di provincia, senza grandi ambizioni. Per diverse generazioni avevano posseduto della terra, ma in seguito il padre, stanco di stupide pecore e di magri raccolti, preferì tentare la fortuna a Londra. Pur senza l'avidità del vero collezionista, era talmente appassionato di libri da essere capace di privare del pane la sua famiglia e di indebitarsi, pur di acquistare le prime edizioni firmate dei suoi autori preferiti. Dopo infruttuosi tentativi nel campo del commercio, decise di lasciar spazio alla sua autentica vocazione e finì con l'aprire un negozio di libri usati e di testi editi da lui. Nel retrobottega installò una piccola macchina da stampa a cui lavorava con 2 aiutanti, mentre su un palco del medesimo locale fioriva a passo di lumaca il commercio di volumi rari. Dei tre figli solamente Rose era interessata al suo lavoro. La bambina diventò grande coltivando la passione per la musica e per la lettura e quando non era seduta al piano o intenta agli esercizi di vocalizzo, la si poteva trovare in un angolo a leggere. Il padre soffriva del fatto che fosse lei innamorata dei libri piuttosto che Jeremy o John, che avrebbero ereditato l'attività. Alla sua morte i figli maschi liquidarono libreria e stamperia. John si diede al mare e Jeremy si fece carico della madre vedova e della sorella. Disponeva di un modesto stipendio come dipendente della Compagnia Britannica di Importazione ed Esportazione, di una modica rendita lasciata dal padre e degli sporadici contributi del fratello John, che non sempre arrivavano sotto forma di denaro contante e sonante, bensì come merce di contrabbando. Jeremy, scandalizzato, riponeva quelle casse peccaminose nel solaio senza aprirle se non alla visita successiva del fratello che si occupava di venderne il contenuto. La famiglia si trasferì in un appartamento piccolo e costoso per il suo bilancio, ma ben situato nel cuore di Londra perché lo ritenne un investimento. Dovevano far contrarre un buon matrimonio a Rose. A 17 anni la bellezza della ragazza iniziò a fiorire. E i pretendenti dalla buona posizione economica disposti a morire d'amore ne aveva da vendere, ma mentre le sue amiche si affannavano alla ricerca di un marito, lei cercava un professore di canto. Conobbe così Karl Bretzner, un tenore viennese giunto a Londra per interpretare diverse opere di Mozart. Quella di Le nozze di Figaro sarebbe stata la sua serata clou, con tanto di partecipazione della famiglia reale. Il suo aspetto non tradiva minimamente il prodigioso talento, sembrava un macellaio. Il suo fisico, rachitico dalle ginocchia in giù, ma dalla pancia voluminosa, era privo di eleganza e il suo viso sanguigno, incoronato da un cespuglio di riccioli smorti, risultava piuttosto volgare. Tuttavia, quando apriva la bocca per dilettare il mondo con il torrente della sua voce, si trasformava in un altro essere, cresceva in altezza, il ventre spariva nell'ampio petto e la rossa faccia teutonica veniva pervasa da una luce olimpica. Perlomeno così lo vedeva Rose Summers, che fece in modo di trovare i biglietti per ogni spettacolo. Arrivava al teatro molto prima dell'apertura e sfidando gli sguardi scandalizzati dei passanti, poco avvezzi a vedere una ragazza della sua condizione da sola, attendeva per ore nei pressi dell'ingresso degli attori per intravedere il maestro che scendeva dalla carrozza. La sera della domenica l'uomo notò la bellezza appostata per la strada e si avvicinò per parlarle. Tremando, lei rispose alle domande e confessò la sua ammirazione per lui e il desiderio di seguire i suoi passi nell'impervio ma divino sentiero del bel canto, come affermò letteralmente. Dopo lo spettacolo venga nel mio camerino e vedremo cosa posso fare per lei, le disse con la sua voce incantevole e un forte accento austriaco. E così lei fece, toccando il cielo con un dito. Non appena il pubblico, levatosi in piedi, ebbe concluso l'ovazione, un usciere mandato da Karl Bretzner la condusse dietro le quinte. Lei non aveva mai visto le viscere di un teatro, ma non perse tempo ad ammirare gli ingegnosi macchinari con cui simulare i temporali, né i paesaggi dipinti sui fondali. Suo unico obiettivo era conoscere l'idolo. Lo trovò avvolto in una vestaglia di velluto blu reale bordata d'oro, il viso ancora truccato e un'elaborata parrucca di riccioli bianchi. L'usciere li lasciò soli e chiuse la porta. La stanza, stipata di specchi, mobili e tendaggi, sapeva di tabacco, belletti e muffa. In un angolo era collocato un paravento dipinto con scene di donne rubiconde in un harem turco e alle pareti erano appesi sulle grucce i costumi dell'opera. Quando vide il suo idolo da vicino, per alcuni momenti l'entusiasmo di Rosa si raffreddò, ma lui seppe immediatamente recuperare il terreno perduto. Le prese le mani tra le sue, se le portò alla bocca e le baciò a lungo. Poi emise un do di petto che fece sussultare il paravento con le odalische. Gli ultimi accenni di ritrosia vennero rasi al suolo, come le mura di Gerico nella nube di polvere che la parrucca sprigionò una volta che l'artista, con un gesto appassionato e virile, l'ebbe lanciata su una poltrona, dove rimase inerte come un coniglio senza vita. I capelli schiacciati da una fitta retina, sommati al trucco, gli davano un'aria da cortigiana decrepita. Sulla medesima poltrona su cui era atterrata la parrucca, un paio di giorni dopo Rose gli avrebbe offerto la sua verginità esattamente alle 3:15 del pomeriggio. Il tenore le aveva dato appuntamento con la scusa di mostrarle il teatro quel martedì, giorno di riposo. Si incontrarono segretamente in una pasticceria in cui lui assaporò con delicatezza 5 éclair di crema e 2 tazze di cioccolata, mentre lei rigirava il suo tè senza riuscire a inghiottirlo per la paura e per ciò che presentiva. Subito dopo si recarono al teatro. A quell'ora era frequentato unicamente da un paio di donne che pulivano la sala e da un operaio che preparava le lampade a olio, le torce e le candele per il giorno successivo. Karl Bretzner, esperto in materia d'amore, con un colpo di magia fece apparire una bottiglia di champagne e riempì 2 calici che bevvero immediatamente brindando a Mozart e a Rossini. Poi sistemò la giovane nel palco di felpa imperiale in cui prendeva posto solamente il re, decorato dall'alto in basso con paffuti amorini e rose di gesso, e si diresse verso il palcoscenico. In piedi, su un pezzo di colonna di cartone dipinto, illuminato dalle torce appena accese, cantò solo per lei un'aria dal Barbiere di Siviglia, facendo bella mostra di tutta la sua agilità vocale e del morbido delirio della sua voce in interminabili fioriture. Quando si spense l'ultima nota del suo omaggio, sentì i singhiozzi lontani di Rose Summers. Corse verso di lei con inattesa scioltezza, attraversò la sala, scavalcò con 2 salti il palco e cadde ai suoi piedi in ginocchio. Senza fiato posò la testa sulla gonna della ragazza, sprofondando il viso tra le pieghe di seta color muschio. Piangeva insieme a lei perché senza volerlo anche lui si era innamorato. Quella che era cominciata come una delle tante conquiste passeggere, in poche ore si era trasformata in passione incandescente. Rose e Carl si alzarono, appoggiandosi l'uno all'altra, titubanti e atterriti dall'ineluttabilità. Procedettero senza sapere come per un lungo corridoio in penombra, salirono una breve scalinata e raggiunsero la zona dei camerini. Il nome del tenore appariva scritto in corsivo su una delle porte. Entrarono in quella stanza zeppa di mobili e costumi di lusso impolverati e sudati, dove 2 giorni prima erano stati da soli per la prima volta. Non c'erano finestre e per un attimo si immersero nel rifugio dell'oscurità, dove ritrovarono il fiato perduto in singhiozzi e sospiri. Mentre lui accendeva prima un fiammifero e poi le 5 candele di un candelabro, alla tremula luce gialla delle fiamme si contemplarono in modo goffo e confuso, investiti da un torrente di emozioni senza sfogo, senza riuscire ad articolare una sola parola. Rose non resse agli sguardi che la trafiggevano e nascose il volto tra le mani, ma lui gliele allontanò con la stessa delicatezza con cui prima aveva sminuzzato i pasticcini alla crema. Iniziarono a scambiarsi lacrimevoli bacetti sul viso, simili a becchettii di colombe, che con naturalezza sfociarono poi in baci veri e propri. Rose, che aveva avuto teneri incontri, incerti e fuggevoli, con alcuni dei propri spasimanti, in cui un paio di loro erano arrivati a sfiorarle la guancia con le labbra, beh, non poteva certo immaginare che fosse possibile arrivare a un tale grado di intimità, che la lingua di un uomo potesse attorcigliarsi alla sua come una biscia furtiva e che la saliva altrui potesse bagnarla esternamente e invaderla internamente. Ma la ripugnanza iniziale fu immediatamente vinta dallo slancio della sua giovane età e dall'entusiasmo per la lirica. Non solo restituì le carezze con pari intensità, ma prese persino l'iniziativa di liberarsi del cappello e della mantellina di Astrakhan grigio che le copriva le spalle. Da lì, a farsi slacciare la giacchetta e poi la camicetta, passò solo il tempo di un paio di assestamenti. La fanciulla seppe seguire passo per passo la danza della coppola guidata dall'istinto e dalle infuocate letture proibite che aveva sottratto segretamente dagli scaffali del padre. Quello fu il giorno più memorabile della sua vita e negli anni a venire l'avrebbe ricordato nei minimi particolari abbelliti ed enfatizzati. Quella sarebbe stata la sua unica fonte di esperienza e conosceva l'unico motivo ispiratore che avrebbe alimentato le sue fantasie e creato anni dopo un'arte che l'avrebbe resa famosa in alcuni circoli molto riservati. Quel giorno meraviglioso poteva essere paragonato solamente a un altro giorno di marzo di 2 anni dopo a Valparaíso, quello in cui Eliza, neonata, le era piovuta tra le braccia per consolarla dei figli che non avrebbe avuto, degli uomini che non avrebbe potuto amare e del focolare che non avrebbe mai costituito. Il tenore viennese si rivelò un amante raffinato. Amava e conosceva a fondo le donne, ma fu capace di cancellare dalla memoria gli sparsi amori del passato, la frustrazione dei molteplici addii, gelosie, eccessi e inganni di altre relazioni, per consegnarsi con totale innocenza alla breve passione per Rose Summers. La sua esperienza non proveniva da patetici abbracci con squallide prostitute. Brezner si pregiava di non aver mai dovuto pagare per il piacere, perché donne di svariate condizioni, dalle umili cameriere alle altere contesse, gli si erano arrese incondizionatamente non appena lo avevano sentito cantare. Le arti dell'amore le aveva imparate insieme a quelle del canto. Aveva 10 anni quando si era innamorata di lui, colei che avrebbe funto da mentore, una francese dagli occhi di tigre e i seni di puro alabastro, che in quanto a età poteva essere sua madre e che a sua volta, all'età di 13 anni in Francia, era stata iniziata da Donatien Alphonse François de Sade. Figlia di un secondino della Bastiglia, aveva conosciuto il famoso marchese nella cella immonda in cui egli, alla luce di una candela, scriveva le sue storie perverse. Lei andava a guardarlo dalle sbarre, semplicemente per infantile curiosità, senza sapere che il padre l'aveva venduta al prigioniero in cambio di un orologio d'oro, l'ultima proprietà del nobile caduto in miseria. Una mattina, mentre guardava dallo spioncino, il padre si tolse il mazzo di grandi chiavi dalla cintura, aprì la porta e con uno spintone scaraventò la ragazzina nella cella, quasi fosse il pasto per i leoni. Cosa accadde lì non era in grado di ricordarlo, ma di fatto rimase insieme a De Sade, lo seguì dal carcere alla miseria, peggiore della libertà, e apprese tutto ciò che lui poté insegnarle. Quando nel 1803 il marchese venne internato nel manicomio di Charenton, lei si ritrovò sulla strada senza un soldo, ma con un bagaglio di sapienza amatoria che le fruttò un marito più vecchio di lei di 52 anni e molto ricco. L'uomo morì dopo poco, sfinito dall'intemperanza della giovane moglie, che si trovò finalmente libera e con i mezzi per fare tutto ciò che desiderava. Aveva 34 anni, era sopravvissuta al brutale apprendistato con il marchese, alla miseria dei tozzi di pane secco della giovinezza, alla baraonda della rivoluzione francese, alla paura delle guerre napoleoniche, e ora doveva sopportare la repressione dittatoriale dell'impero. Era stanca e il suo spirito chiedeva tregua. Decise di cercarsi un luogo sicuro in cui passare in pace il resto dei suoi giorni e scelse Vienna. In quel periodo della sua vita conobbe Karl Brezner, figlio di una coppia di vicini. Era un bambino di soli 10 anni e già cantava come un usignolo nel coro della cattedrale. Grazie a lei, diventata amica e confidente dei Brezner, quell'anno il ragazzino non venne castrato allo scopo di preservare la sua voce da cherubino, come aveva suggerito il direttore del coro. «Non toccatelo e in poco tempo sarà il tenore più pagato d'Europa», pronosticò la bella. Non si sbagliò. Nonostante l'enorme differenza d'età tra lei e il piccolo Carl, si instaurò un insolito legame. Lei ammirava la purezza di sentimenti e la dedizione del bambino alla musica. Lui aveva trovato la musa che non solo aveva salvato la sua virilità, ma che gli avrebbe insegnato anche a usarla. All'epoca in cui cambiò definitivamente la voce e iniziò a radersi, aveva sviluppato la proverbiale abilità degli eunuchi di soddisfare una donna in modi non previsti dalla natura e dall'abitudine. Ma con Rose Summers non corse rischi. Decise che non era proprio il caso di assalirla con focosità in un baccanale di carezze troppo audaci, perché non si trattava di stupirla con trucchi da serraglio e non poteva certo sospettare che in meno di 3 lezioni pratiche l'alunna l'avrebbe superato in inventiva. Per tutta la durata della stagione lirica londinese, gli amanti si scambiarono freneticamente missive, fiori, cioccolatini, versi copiati e piccole reliquie sentimentali. Si incontravano non appena potevano. La passione fece perdere loro di vista qualsiasi prudenza. Per guadagnare sul tempo cercavano camere d'albergo vicine al teatro, per nulla impensieriti dalla possibilità di essere riconosciuti. Rosa scappava di casa con scuse ridicole e sua madre, terrorizzata, non confessava nessuno dei suoi sospetti a Jeremy e pregava affinché l'intemperanza della figlia fosse passeggera e si dileguasse senza lasciare traccia. Carl Bretzner arrivava tardi alle prove e dal tanto spogliarsi a qualsiasi ora si buscò un raffreddore che gli impedì di cantare in due spettacoli. La ragazza sentì di aprirsi come un fiore carnivoro, di esalare aromi di perdizione per attirare l'uomo come un insetto, triturarlo, inghiottirlo, digerirlo e infine sputare i suoi ossicini trasformati in schegge. Si sentiva dominata da un'energia incontenibile, le sembrava di soffocare. Non poteva rimanere quieta, nemmeno un istante, divorata com'era dall'impazienza. Nel frattempo Karl Bretzner sguazzava nella confusione. A tratti esaltato fino al delirio, a tratti esangue, cercava di mantenere fede agli impegni musicali, ma le prestazioni stavano peggiorando a vista d'occhio e i critici, implacabili, dissero che sicuramente Mozart si rivoltava nella tomba a ogni esecuzione, in senso letterale, delle sue composizioni da parte del tenore viennese.